want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Buonasera a tutti, ben ritrovati al Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera da Gigi Telesforo, buonasera anche al nostro operativo Francesco Tromba, collaboratore del nostro programma, per tutto quello che riguarda le informazioni che troverete naturalmente anche sulle nostre pagine Facebook, su Twitter. Ogni tanto qualche tweet lo lancia, cose che riguardano la nostra programmazione, ma soprattutto l'airplay del nostro Soundcheck, che troverete anche nelle pagine del sito groovemasteredition.com. Come stai, Francesco? Ben ritrovato al Soundcheck. Buonasera, io sto benissimo, sono pronto per una nuova puntata. Sei pronto? Ti vedo euforico, perché stai per conoscere, te lo vado subito a introdurre, un musicista di quelli interessanti, un musicista versatile, un musicista che io conosco, posso dirlo? Beh, da oltre 35 anni, praticamente quando mi trasferì a Roma intorno alla fine degli anni 70, primi anni 80, è stato uno dei primi musicisti che ho frequentato a Trastevere, perché Trastevere in quel periodo a Roma non era una zona così incasinata, anzi era una zona molto piacevole. Intanto si trovava parcheggio a tutte le ore e poi c'erano un sacco di ristoranti e di localini dove si faceva musica. Più volte abbiamo raccontato di un piccolo music club dove si faceva la caipirinha buona, un locale chiamato Manuia, punto di riferimento non solo per gli appassionati di musica brasiliana ma anche per i musicisti di jazz e per tutti coloro che raggiungevano Roma per fare concerti. Lo abbiamo raccontato, a volte abbiamo anche fatto jam session con signori tipo Patmetini, per dirne uno fra i tanti, e proprio di fronte al Manuia viveva questo signore che ha iniziato la sua carriera come chitarrista, lo voglio dire, di stornelli in romanesco, ma ce lo faremo raccontare da lui. Bassista eccellente, devoto al funk, all'R&B, con una bellissima preparazione sul jazz, arrangiatore, compositore, insomma un uomo che vive di musica da tanto tempo, leader insieme a Filippo Clarì di una band italiana nota nel mondo, ovvero i Gabben. Vado a introdurvi l'arte e il talento del mio amico Max Bottini. Benvenuto Max e bentornato in Italia. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, sì, perché bentornato in Italia? Perché questo signore, che praticamente è italiano di nascita, ma è un poliglotta da un punto di vista culturale e soprattutto onnivoro musicalmente, da un po' di tempo vive a New York City. Sei invidioso per questo? Invidiosissimo. Ho anche una domanda poi su questa questione, sul fatto che lui viva a New York. Ecco, su questa scelta di vita, Max, sono contentissimo di vederti in grandissima forma. Sono contento, so che stai facendo delle bellissime cose a New York. Intanto hai cambiato proprio aria, atmosfera, hai cambiato città. Quanto è stimolante New York per un musicista che ormai ha superato i 50? No, non li ho superati. No, allora li ho superati solo io. No, li ho superati, ma da pochissimi mesi, insomma, mettiamola così. Vabbè, New York è, insomma, non la invento io, insomma, è una fucina di idee, di stimoli soprattutto, dove ancora la musica si fa partendo dal contatto umano. Insomma, è molto importante a New York incontrarsi, proprio dall'incontro con musicisti che escono fuori idee, insomma, che dire, mi trovo benissimo. Ecco, certo, ti trovi benissimo, anche perché ha il signore, lo dico, ha una compagna che è una bellissima attrice newyorkese. Tanto per raccontare il quadro generale, come stanno le cose. Senti Max, io farei subito una cosa, vorrei ascoltare con te, farti ascoltare un lavoro che abbiamo fatto insieme diversi anni fa, più o meno una decina di anni fa, anticipando un po' quello che sta succedendo adesso, cioè un ritorno a quella vena soul fine anni 70, primi anni 80. Noi lavoravamo insieme in una band chiamata Groovinators, e questa band la ascoltiamo con una composizione proprio di Max Bottini intitolata I'll Let You, e la voce è di una bravissima cantante, una nostra amica, anche lei newyorkese. Poi mi racconterai di Mia Cooper qui al Soundcheck di Radio 24. Oh, yeah, I'll let you look. La voce di Mia Cooper per I Let You, la band era quella che avevamo insieme al nostro Max Bottini, al bravissimo Marcello Suracio alla batteria, Fabio Zeppetella alla chitarra e Alfonso De Ida come polistrumentista, ovvero i Groovinators, per celebrare proprio l'arrivo di Max Bottini qui al nostro soundcheck direttamente da New York. Hai ancora un po' il fuso all'interno del tuo fisico e del tuo cervello, ma come ti senti quando torni a casa? Questa volta devo sinceramente mi sento un po' frastornato, perché insomma sto tornando, ho appena finito un trasloco a New York, per cui sto tornando qua e ne devo fare un altro qua. No, che dire, l'Italia è il mio paese, grande amore, grande odio, diciamo che i sentimenti sono un po' contrastanti. È chiaro che continua ad essere e rimarrà per sempre insomma il mio punto di riferimento, soprattutto Trastevere, che tu hai appena citato, insomma, cioè non posso fare a meno ogni tanto di prendere la macchina e andarmi a fare un giro. E torni nei luoghi dei delitti, fra virgolette, sì, cioè a casa dei tuoi genitori, dove noi ci vedevamo quasi tutti i giorni per studiare musica, scrivere, fare arrangiamenti, e quindi proprio all'inizio degli anni Ottanta. Dicevo all'inizio della puntata che tu ti sei avvicinato alla musica suonando la chitarra, accompagnando un grande cantore di stornelli romaneschi. Ci puoi raccontare quel periodo e quell'avventura? Quanti anni avevi? Avevo 6 anni. Oh, mamma mia, 6 anni andavi in giro per ristoranti? Sì, suonavo dappertutto, Ciceruacchio, mio padacca. E devo dire che è stata una grandissima scuola. Proprio chi era lui? Lui era il grande. Il mio secondo padre è stato. Lui si chiamava Remo Mosca, in arte Remo de Roma. Certo, Remo de Roma. E che cosa facevi con Remo de Roma? Cioè, come funzionava? Remo de Roma veniva a casa, signora, vada e scende, e Massimino. Lui, innanzitutto, era un amico dei miei genitori. C'è la leggenda che addirittura da giovanissimo facesse la corte a mia madre. E niente, per cui ero proprio piccolo, lui veniva a casa, facevamo le prove. Lui era assolutamente ignorante in fatto musicale, cioè nel senso che non conosceva la musica, non conosceva gli accordi, per cui lui veniva a casa mia, lui cantava e io dovevo scoprire gli accordi, insomma, per cui è stata una grandissima scuola, perché ho sviluppato un grandissimo senso, insomma, musicale. Senso, proprio l'orecchio assoluto che hai, che poi ti ha aiutato, nella carriera. Che mi ha aiutato assolutamente, e è proprio questione di questi giorni, stiamo parlando proprio a New York, forse di fare un progetto dove le mie radici vengano un po' usate. Una cosa che devo dire che già ho fatto negli anni 90, in un disco che feci con Roberto Gatto, Luna, dove mischiamo la cultura e il folklore romanesco con il jazz. Sì, un tributo a Remo de Roma potresti, sì, fare in chiave super funk e groovy. Allora, parlando di funk e groove, andiamo alla voce di una signora che amiamo, la regina del neo soul, ovvero Erika Badu, con Window Seat qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E qui ospite del soundcheck, la prova del suono di Radio 24, il maestro Max Bottini. Non fa un certo effetto quando i più giovani iniziano a chiamarti, a darti del maestro? Come ti senti? Malissimo. Malissimo, quando gli amici di mia figlia mi danno del lei, e lo so, c'è poco da fare, si cresce, si diventa grandi. Allora, abbiamo iniziato a raccontare la tua storia, quindi a 6 anni accompagnavi il maestro, ecco, Remo de Roma, che ti portava in giro per ristoranti, e lo accompagnavi alla chitarra e lui cantava gli stornelli romaneschi, intrattenendo così soprattutto i turisti presenti nella nostra città. Poi a un certo punto c'è stata l'illuminazione crescendo, dalla chitarra sei passato al contrabbasso, e come ti sei avvicinato al jazz? Perché non mi sembra che a casa tua, in famiglia, si ascoltava ascoltasse jazz o musica di questo tipo? No, no, assolutamente. Io suonavo, diciamo, finita l'esperienza con Remo de Roma, verso i 12-13 anni, iniziai a suonare con un gruppo di rock progressive che si chiamava Senso Unico. Si ammalò il bassista a un certo punto, per cui passai dalla chitarra al basso e là ci fu, insomma, l'illuminazione. Un amico di un altro amico, insomma amico comune, mi fece sentire per la prima volta un disco dei Weather Report. Era gli anni 70, metà anni 70, e là ci fu la folgorazione. Ecco, folgorazione che poi ti ha portato a scoprire dai Weather Report indietro tutto un mondo, quindi le radici del blues, perché tu sei prima di tutto un bluesman. Certo, poi diciamo io la mia carriera professionale è iniziata ufficialmente a 16 anni suonando nel trio di Roberto Ciotti, il compianto amico fratello Roberto. Eh sì, il papà di tutti i bluesman italiani che abbiamo perso qualche mese fa, e approfitto anche per salutare la famiglia del caro Roberto. Siamo stati al suo funerale, è stata una cosa molto commovente. Tu eri a New York, però insomma ci siamo sentiti e ti raccontai anche come andarono le cose per il povero Roberto. E quindi la folgorazione con il jazz ti ha portato a scoprire questa musica fantastica, ma io ricordo che tu sei stato anche uno dei primi a Roma, fra gli amici musicisti, appassionato di registrazione. Mi ricordo proprio il tuo piccolissimo quattro piste con il quale realizzavamo arrangiamenti e provini veri e propri. Sì, sì, sì, mi ricordo benissimo. Tra l'altro mi ricordo un provino bellissimo di un pezzo che si intitolava Ice Cream, che facevamo a casa tua, a via Pezzana, ai Parioli, vicino alla moschea. Mi ricordo stavano costruendo la moschea, ancora non c'era la moschea. Infatti, quello è stato un provino che poi diventò parte del primo disco che realizzai, e proprio in quel periodo. Tradotto in italiano, però mi ricordo. Sì, beh, sì, l'esigenza proprio di creare il suono piuttosto che suonare solo il basso, insomma, è una cosa che ho sempre avuto, insomma, un'esigenza proprio. È così, perché lo posso dire, mio caro Francesco Tromba, quest'uomo che è un eccellente bassista e ha aperto la strada a molti bassisti groovy, jazz groovy in Italia, ha comunque un'indole molto particolare, cioè ha sempre preferito chiudersi in uno studio di registrazione piuttosto che caricarsi l'ampli del basso e lo strumento in macchina per andare a fare concerti. L'ho fatto tanto, l'ho fatto tantissimo. Insomma, però sì, diciamo che ho sempre prediletto la produzione e la composizione. Ecco, produzione che poi un bel giorno ti ha portato in contatto con Filippo Clarì, con il quale hai messo su questo progetto discografico importante, ovvero i Gaben. E da una delle produzioni più recenti dei Gaben io vorrei ascoltare un brano bellissimo, A Vida e Agora, con la voce di una superstar brasiliana americana come Flora Purim, che noi abbiamo scoperto nei dischi di Chick Corea degli anni 70 e che ancora oggi è un modello da seguire. È un modello, è tra l'altro una persona fantastica, la partecipazione al disco ha dato in là un rapporto che va ancora avanti, ci scriviamo, ci sentiamo, grandissima maestra, grandissima cantante, poco da dire. Allora, dall'album dei Gaben, Flora Purim, un brano di Max Bottini, A Vida e Agora. Deixo no meu peito uma semente de emoção. Dall'album Third and Double, ovvero il terzo disco dei Gaben, però con due CD inseriti, questo dalla facciata prodotta, nella parte prodotta da Max Bottini, con la partecipazione della veterana Flora Purim. E quindi dicevamo, non è perso il vizio di produrti le cose a casa. Lavoravamo quando eravamo ragazzini sul quattro piste, oggi invece si utilizzano i computer, ma quanto stai dietro alla tecnologia? Non più tanto come una volta, cioè nel senso che mi sono reso conto che la creatività necessaria per scrivere una canzone è una cosa che va coltivata, e spesso e volentieri lo stare troppo dietro alla tecnologia un po' mi svia, un po' mi distrae. Per cui ho preferito a un certo punto, qualche anno fa, fare proprio una scelta e affidarmi a un collaboratore preziosissimo che sta qui a Roma, che si chiama Luca Leonori, che mi setta i computer, mi aggiorna con nuovi plugin, nuove cose. Tra l'altro abbiamo ormai, sai, con questo questo programmino lui mi può mettere a posto il computer da Roma, insomma, cioè entra nei miei hard disk, mi carica, e proprio per avere più spazio, insomma, che mi consenta di essere un po' più creativo, per cui, cioè, quello di aprire il programma e avere tutto pronto, quello che mi serve, senza dover pensare prima di installarlo, ecco. Per cui, e comunque il computer non deve togliere la preparazione del musicista. No, e a un certo punto mi sono reso conto che me la stava togliendo, per cui ho preferito delegare tutta la parte tecnica a un'altra persona. Certo, poi la tecnologia la devo aprire, perché se apro il plugin poi lo devo usare, però insomma tutto quello che c'è dietro preferisco non farlo. Francesco Tromba è pronto per una domanda, ma la rimandiamo perché abbiamo bisogno di musica, e torniamo allora ad ascoltare la voce di Flora Purim, però qui da un suo disco realizzato nel 2003 intitolato Speak No Evil, come la composizione di Wayne Shorter. Il brano è un brano composto da Bill Cantos, pianista cantante, che introduce con la sua bellissima voce questa composizione dal titolo I Feel You. Flora Purim al soundcheck di Radio 24. Just another afternoon on the sidewalks of London. All the grey and rainy days run together, hidden in the streets of stone. Suddenly I'm not alone. I feel you. I feel you. Sound check. Il suono della musica. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only skin, so keep on pushing. Il suono ancora modernissimo creato da Curtis Mayfield negli anni 70 con questo suo brano intitolato Move On Up, presente al soundcheck di Radio 24 con nostro ospite il bravissimo Max Bottini, appena rientrato in Italia da New York, dove sta mettendo le basi in virtù anche di questa storia d'amore che ha con una bellissima ragazza, una bravissima attrice americana. Posso dirlo che aspettate un pargoletto? Sì, l'hai detto. L'ho detto, sono fatto così. Allora, vedo il nostro Francesco Tromba pronto. Che cosa volevi chiedere, che stai scalpitando? Sì, allora volevo chiedere al maestro Bottini se, diciamo, la sua fra virgolette fuga in America è anche dettata dal fatto che voleva levarsi un po' dall'ambiente italiano e da tutto quello che ci sta intorno, diciamo, alle produzioni, alle case discografiche italiane. Ma guarda, in un certo senso io non ho mai fatto parte del giro, diciamo, tra virgolette italiano, nel senso che io dal 92 al 98 ho vissuto in Olanda, sono ritornato per qualche anno, adesso mi sto rispostando a New York. Tutte le cose, tutte le produzioni che ho fatto hanno sempre avuto respiro internazionale, proprio perché mi viene naturalmente di fare quel tipo di musica, per cui forse questo passaggio adesso negli Stati Uniti è un passaggio non obbligato ma quasi naturale, chiaramente dettato dal fatto anche che mi sto per sposare, che mi sta per nascere il secondo figlio, c'ho una figlia bellissima qui in Italia che poi verrà anche lei a New York. Per cui no, certo, capita, come si dice a Roma, capita a cecio, cioè nel senso che forse in un momento di grande crisi togliere, insomma, le tende non è una cattivissima idea, ma il motivo non è stato quello, cioè è avvenuto in maniera abbastanza naturale. Quali sono i musicisti di riferimento in questo momento a New York? Ci stanno. Io conosco un chitarrista fantastico che si chiama Chris Crocco. È molto strano perché comunque i musicisti di riferimento non fanno mai parte del giro, diciamo, dei musicisti che potrebbero tornarmi utili a me per le cose che faccio. Per cui c'è questo ragazzo idolo americano che suona la chitarra, suona jazz in maniera incredibile. Chris. Segna questo nome, Chris Crocco. E poi ho conosciuto un pianista italiano. Ho appena fatto, mi hanno chiamato a fare un lavoro per una produzione per un cantante italiano con una produzione americana arrangiata da Simone Borgia, che è il nostro caro amico, nonché arrangiatore di parte anche dei brani che abbiamo ascoltato prima. E tra gli altri musicisti c'era Sterling Campbell, tra l'altro, che è il batterista dei Duran Duran, di David Bowie, e ho conosciuto questo pianista italiano che sta in America da 15 anni, che si chiama Simone Giuliani, che è fantastico, veramente grande, grande musicista. Sì, ci sono dei nomi e dei ragazzi italiani che non conosciamo proprio perché magari si sono trasferiti troppo presto, come il bravissimo Giulio Carmassi, questo polistrumentista meraviglioso pisano che è in tournée con la band di Pat Metini. Stefano Baldasseroni, un altro batterista bravissimo che sta a New York e lavora con un sacco di gruppi indie. Ecco, ricordatevi questi nomi, noi ce li ricordiamo senz'altro. Allora, torniamo alla musica, visto che abbiamo ascoltato Curtis Mayfield, torniamo a un'altra composizione di Curtis Mayfield intitolata Here But I'm Gone, brano che abbiamo realizzato con Max Bottini sempre per i Groovinators intorno al 2000 e qualcosa, adesso precisamente, sai, dopo tanti anni si fa confusione. Comunque Groovinators, la voce è sempre quella di Mia Cooper con l'ottima band che avevamo, come dire, insieme col bravissimo Max Bottini, qui al soundcheck di Radio 24. Max Bottini è nostro ospite di rientro da New York, si trattiene qualche mese per poi tornare negli Stati Uniti e continuare i suoi lavori da eccellente producer discografico, e quindi è venuto qui al soundcheck, non potevi non venire a trovarci. Allora noi facciamo una breve pausa per arrivare diretti all'informazione di Radio 24 con Bill Withers, lo voglio dire, qui fare un altro piccolo omaggio a un musicista italiano, un bravissimo compositore, un nostro carissimo amico che è scomparso alcuni anni fa, con il quale abbiamo lavorato e con il quale ci siamo fatti delle serate divertentissime. Vi sto parlando di Francesco Puccioni, in arte Mike Francis, che mi fece scoprire la bellezza di Bill Withers. Sì, indimenticabile Francesco, indimenticabile un tour, se ti ricordi, che facevamo insieme nelle Filippine, che ha segnato veramente un momento importante per la nostra vita, credo, a parte per la nostra amicizia, ma proprio per la nostra vita musicale, insomma, cioè, fu un'esperienza fantastica. È vero, come suonare e andare in giro, viaggiare e divertirsi quando poi hai a che fare con un grande personaggio, una persona bellissima come Mike Francis, come era Mike Francis. Allora, breve pausa, dopo Bill Withers arrivano le informazioni di Radio 24 e poi di nuovo con il soundcheck. A man we pass just tried to stare me down, and when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. Can you hear me? Sound check. Il suono della musica. Direttamente da New York City è rientrato in Italia Max Bottini con tutta la sua musica, tutta la sua energia, però mi sa che in questo periodo qui in Italia non farei altro che andare in giro fra parenti e amici a mangiare e a rifarti, perché tu che ami la cucina italiana, come ti trovi a New York e in America? Cioè, ti organizzi, vai a fare tu la spesa o la fai fare a tua moglie, che da americana non so quanto possa essere ferrata? No, lei è ferratissima, bravissima, cioè, proprio poi specializzata proprio in cucina romana. Però ultimamente devo dire che abbiamo cambiato un po' regime alimentare. E siamo diventati tutti e due vegetariani, non, o mangiamo carne veramente di rado, per cui insomma stiamo un po' attenti al biologico, per cui insomma ogni tanto magari qualche carbonara, però non con il bacon, non con la pancetta, ma con le zucchine. Mi stai diventando veramente newyorkese, perché non mangiano più certe cose, sono attenti ai carboidrati, certamente non fumano, se ti vedono con mezza sigaretta in mano ti possono anche sparare. Non fumano, non alcol assolutamente. No. Amano? Amano, sì, amano molto. Ecco, tu hai detto che hai lasciato la carne, stai diventando più o meno, non dico vegano, ma vegetariano, ma tu senti questo odore speziato, perché io so da dove proviene, perché quest'uomo qua, che è calabrese, in quella borsetta, io non so che cosa ci sia, ma sento che viene fuori qualcosa, che cosa hai portato? Degli involtini all'anduia. Quindi sei pronto per far crollare tutta la tua voglia di vegetali? Eh sì, con quelli bisogna cedere per forza, non può essere. Ho capito, però dobbiamo aspettare almeno la fine della trasmissione per poi scaldarli. C'è il microonde di là, ci pensi tu? Vabbè, nella pubblicità un colpo si può dare. Non mi far parlare con Bottini dopo aver ingerito l'involtino all'anduia, perché non vorrei ammazzarlo direttamente con una litata. No, non lo ammazzi, dai, al massimo. Lo disinfetto. Sì, al massimo. Ecco, va bene. Allora, dopo queste chiacchiere assolutamente calabresi, perché voi calabresi parlate di questo, no? Soprattutto. Eh certo, bisogna trovare il cibo nel posto giusto che ricordi la propria terra. No? Va bene, siccome lui è anche un intellettuale ex di sinistra, no, perché la sinistra non c'è più? In Italia no, non esiste più. Non mi sembra, va bene. Hai un altro quesito, un'altra domanda per il maestro Bottini? Sì, ne ho un'altra. Allora, considerando la sua carriera, lei diciamo... Sto già tremando. È partito dal jazz, ma poi si è spostato verso, diciamo, qualcosa di più commerciale e vendibile. Quindi, diciamo, Qual è la domanda? L'ha fatto solo perché il musicista jazz guadagna di meno o per altri motivi? Bella domanda! Però non è vero che ci sono dei musicisti di jazz che guadagnano un'infinità di soldi, questo non è vero. Bisogna sempre partire dal presupposto che è la qualità e il livello che fanno la differenza, per cui un grande musicista di jazz sicuramente... No, ho sempre seguito i miei gusti, ho sempre seguito quello che mi andava di fare. In effetti io non mi sono mai veramente considerato un musicista di jazz, cioè sono stato prestato al jazz per un certo periodo della mia carriera e dal jazz ho appreso veramente tanto, ma non sono mai stato un vero, diciamo, musicista di jazz nel vero senso della parola. Mi è sempre piaciuto spaziare, mi ricordo i viaggi in macchina che facevamo per fare i concerti con Roberto Gatto e molto spesso litigavamo perché lui voleva sentire Jarrett e io volevo sentire Prince. Sì, allora credo che anche Zara McFarlane viva un po' questa, un po' come te, la passione per l'R&B, per il soul, utilizzando molto spesso musicisti che invece arrivano dal jazz. Lo fa per la produzione dell'inglese Giles Peterson, il brano si intitola Move, tratto dal nuovo album If You Knew Her, proprio pubblicato pochi mesi fa qui al Soundcheck di Radio 24. So the time has come. Though I know not where to go, I need a sense of my reality so I can be me. Either side I look, I stand alone. Until this day I've claimed that I am grown. Soundcheck. Il suono della musica. E dopo aver suonato con Remo De Roma agli Stornelli quando era bambino, aver studiato jazz, militato nella band di Roberto Gatto, fatto tanti giri anche con me suonando groove e funk in giro per l'Italia e per il mondo, un bel giorno il nostro Max Bottini, nostro ospite qui al Soundcheck di Radio 24, incontra un DJ, ovvero Filippo Claricoli, il quale mette su un'operazione discografica che lo ha portato sul serio in giro per il mondo. Infatti i Gabin sono oggi una delle produzioni italiane più vendute discograficamente nel panorama discografico internazionale, una band che coniuga la passione per le vecchie sonorità o le vecchie produzioni a partire proprio da quelle degli anni 50-60, però con il suono e il piglio contemporaneo. Quanti anni di vita hanno i Gabin oggi? E hanno circa 12 anni, abbiamo iniziato nel 2002, abbiamo fatto tantissime cose, tantissimi dischi, all'inizio diciamo che le nostre competenze erano abbastanza complementari, per cui facciamo parte di quel giro classico di quel momento, l'accoppiata musicista DJ, insomma. Poi fatti i primi due dischi, un po' le competenze si sono anche mischiate tra di loro e a un certo punto abbiamo anche deciso di fare il doppio, per cui di fare un disco dove ognuno ha prodotto la sua parte, le proprie esigenze, così di... Ecco, approfitto perché ti porto i saluti di Francesca Sortino, che era la voce solista, tra l'altro del primo brano di successo dei Gabin, che era la versione, come si intitolava? Doo-wop, la versione contemporary di Dominant Thing If You Ain't Got The Swing, che è stata nostra ospite proprio poco tempo fa. Mi ha detto di salutarti. E poi, oltre a Francesca Sortino, avete utilizzato tante voci importanti, a partire da Didi Bridgewater fino ad arrivare a Mia Cooper, oppure il vocalist protagonista di questa composizione molto bella, una canzone bellissima che hai scritto anni fa, si intitola City Song. Chi è il vocalist? È Gary Go, un grandissimo cantante. Che non è Gary Lowe, quello degli anni, fine anni 70, no, della no, collegiale. No, non è lui, non è Gary Go, inglese, è scoperto da Peter Gabriel, grandissima voce. E quello che mi è sempre un po' piaciuto è prendere musicisti di un certo genere e farli suonare in contesti diversi. In questo caso lui è un grandissimo cantante di pop music, la classica Britpop, e invece l'ho inserito in un contesto un po' più particolare. Lui esce fuori questa sua caratteristica di grande crooner. Sì, perché la composizione City Song ricorda un po' i brani scritti da Burt Bacharach, sì, un po' sì, quell'atmosfera. Assolutamente. In effetti, prima di chiamare lui avevo pensato a Tony Bennett, che sarebbe stato anche un altro. Beh, non male, eh? Sì, non sarebbe stato male. Go wrong with the city song. No, you can't go wrong with the city song. Da da da da da da da. Soundcheck, il suono della musica. E la musica dei Gabin è stata utilizzata per il cinema, da grandi produzioni americane, grandissimi telefilm importanti. Infatti ogni tanto, per esempio, io seguo, lo voglio dire, Grey's Anatomy, e ogni tanto in Grey's Anatomy partono delle composizioni dei Gabin in sottofondo. Ma soprattutto, mio caro Francesco Tromba, e qui devi riflettere, perché qui stiamo parlando di diritti di autore anche di una certa rilevanza. Alcuni giochi tipici della PlayStation hanno utilizzato la musica dei Gabin. Come si arriva ad avere questo tipo di esposizione mediatica? Beh, è iniziato un po' con la pubblicità, per la verità. È iniziato con la pubblicità in America. Siamo stati pubblicità per una grossa ditta di shampoo all'inizio, con Doo-wop, e poi film proprio Hollywood. Into My Soul con Didi Bridgewater è inserito nella colonna sonora di Monster in Love, quel mostro di suocera con Jennifer Lopez e Jane Fonda. Un pezzo che canto io in finto inglese, che io non volevo assolutamente fare uscire e che invece Didi Bridgewater mi ha costretto a fare uscire, perché io l'avevo fatto sentire la mia voce, che era buttata su questa canzone come provino, cantando in maccheronico. Lei mi ha proprio convinto a farlo uscire. Ecco, è stato colonna sonora di un sacco di film, tipo i Fantastici 4, il primo Fantastici 4, e ultimamente Rise of the Guardians, è un cartone animato della DreamWorks. E abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo fatto Grey's Anatomy, Bones, Sex and the City. Beh, questi sono diritti d'autore importanti per una band che comunque trova nella discografia il companatico, perché non è una band che gira tanto dal vivo. Concerti ne fate, in Italia vi si vede molto poco, però insomma non è il live il vostro punto di forza, o no? Devo dire che c'è stato un momento nel quale facciamo tantissimi concerti, soprattutto in Nord ed Est Europa. In Italia non siamo mai stati percepiti veramente come una band live, tant'è vero che non abbiamo mai fatto... Forse non vi siete neanche mai dedicati con il management adeguato. Sì, forse non ci siamo mai dedicati. Ma tu che sei un musicista, non ti manca proprio l'approccio con lo strumento, con il basso elettrico, andare in giro in macchina, bere una birra con gli amici, salire sul palco? Sinceramente no, cioè nel senso... Che peccato, ma sai che questa cosa mi dispiace tanto, cioè io mi ricordo, guarda, nei primi anni 80 c'erano i bassisti, per esempio faccio un nome, Dario De Idda, che oggi è il miglior bassista elettrico al mondo. Sì. Ed, quando ti sentiva suonare mi diceva, ma com'è Bottini, mi veniva a chiedere, Bottini è quello che è, dicevo io, è bravo e sta chiuso a casa. Sì. Mi piace suonare, però l'esigenza più grande per me è quella proprio di comporre, di scrivere le canzoni e di cantare anche. Adesso vuoi pure cantare? Sì, ma io canto, io in tutti i dischi dei Gabin canto, non c'è un disco dei Gabin dove non canto, o in finto inglese o in finto italiano. Beh, l'importante è che venga fuori una bella melodia. Sì, ecco, e su questo sei bravissimo, perché hai un senso melodico importante e poi supporti armonicamente la melodia con delle soluzioni notevoli che vengono fuori anche da questo brano che si intitola The Game, con la voce di Mia Cooper. È un brano che in qualche modo mi ricorda un po' Pat Metheny degli anni 80. Sì, il ritmo, il groove è assolutamente... l'ispirazione mi è arrivata proprio da un pezzo di Pat Metheny per quello che riguarda solo il groove ritmico. Un up tempo col piatto swing su un pezzo. Solo che qui il chitarrista chi è? Qui il chitarrista è il nostro grandissimo amico, che è uno dei chitarristi più forti del mondo, secondo me. Lo penso anch'io. Che è Fabio Zeppetella. E al soundcheck di Radio 24 oggi stiamo raccontando le vicende artistiche di Max Bottini, musicista, bassista, compositore, arrangiatore, leader insieme a Filippo Clary di una band nota in tutto il mondo con il nome di Gabin, che qui abbiamo apprezzato con la voce di Mia Cooper in un brano sempre scritto da Max Bottini intitolato The Game, che troverete in un album doppio bellissimo pubblicato pochi anni fa intitolato Third and Double, album che insomma ha dominato le classifiche discografiche per un bel po'. Sì, è andato molto bene. Sì. Allora io invece ti faccio sentire il suono di un musicista tedesco molto apprezzato in Germania, non così conosciuto da noi, e invece qui al soundcheck di Radio 24 noi lo abbiamo suonato diverse volte perché ci piace proprio l'approccio strumentale con la sua tromba, ma anche il tipo di atmosfera che crea, che ci riporta un po' indietro nel tempo, a un soul jazz molto elegante nel suono e negli arrangiamenti dell'inizio anni 70, e vi stiamo parlando, che cosa? Ed è nato a Roma come... È nato a Roma Till Bronner? Ah, non sapevo questa cosa. E come mai fa Bronner e non fa Remo de Roma di cognome? Dovremmo chiederlo forse a Bottini. A Bottini, che ha frequentato Remo di Roma. Perché non canta gli stornelli. Eccolo qui Till Bronner con la sua tromba, il brano si intitola FFH. Thank you. mi. Soundcheck, il suono della musica. Fra le grandissime voci coinvolte da Max Bottini per i Gaben, anche quella della bravissima Barbara Casini, famosa in tutto il mondo, interprete di musica brasiliana tradizionale e contemporanea che io adoro, e infatti anche lei è stata ospite del nostro Soundcheck. Siamo praticamente ai saluti con il nostro Max Bottini, al quale auguro ancora successi, tanta musica, tante bellissime melodie, anche successo con questa nuovissima produzione. Mi dispiace, ma non abbiamo avuto proprio il tempo di ascoltare nulla da Soundtrack System, nuovo album dei Gaben, praticamente una moderna collezione di suoni e suggestioni per cinema immaginato, quello immaginato dai Gaben, che poi alla fine i brani se li ritrovano in film veri. Mi sembra che tu stia collaborando con dei registi a New York in questo momento. Sì, sto per iniziare una collaborazione per un corto e per un film, poi ti dirò, ancora non posso dirlo, sono scaramantico, finché non firmo il contratto non lo dico. E per lo scoring di, appunto, come dicevo, di un corto e di un film. Ecco, facci sapere anche le attrici presenti nei film, perché se ci dovesse essere, Jennifer Lopez, il nostro Francesco Tromba sarà prontissimo per un'intervista. So che ti piace Jennifer Lopez. Dalla A alla Z, qual è la lettera che ti piace di più di Jennifer Lopez? Tutte quante. Hai visto che è preparato? Perché è calabrese. Ho visto che ha messo a scaldare gli involtini, come si chiamano? Involtini all'anduia. Involtini all'anduia, sei pronto per questo tipo di esperienza? Ma io non lo so, io non mangio il maiale, per cui non lo so. Non è maiale, è vitello, vero? Vitello, sì. Però l'anduia è fatta dal maiale. Eh sì. E c'è un pelo di maiale, scusami, appena proprio una puntina, Max. Grazie a Max Bottini, noi ci risentiamo domani a partire dalle 15:30 la prima parte, seconda parte alle 19. Eh sì, nella prima parte Maira Andraghi, finalmente la incontriamo, questa bella ragazza di Capoverde, e poi il bravissimo pianista italiano, uno dei più forti in giro per il mondo, Antonio Faraò, e approfitterò anche per salutartelo, visto che siete amici anche voi. Allora, chiudiamo con un brano di molti anni fa, scritto da Bottini, intitolato 100 Flowers Waltz, per il repertorio di Roberto Gatto. Ci porta indietro proprio nella tua bellissima Trastevere. Max, in bocca al lupo per la musica. Grazie. La tua famiglia, saluta la tua nuova compagna, e poi ad agosto diventi papà per la seconda volta, ecco. E questa è una grande cosa, e il vero amore sta per tornare. È vero. Grazie è vero. A tutti voi. Grazie. Buona serata e buona musica. Grazie. Thank you.